Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno, io sono qui, abbiamo ripreso, stiamo riprendendo dopo le vacanze. È un po' dura riprendere il passo, gli inizi sono sempre difficili, ci vuole un po' di pazienza, scriveva Potok, ma le nostre nonne ci dicevano: chi ben comincia è a metà dell'opera. Allora io direi, iniziamo bene e iniziamo dal centro, sì, proprio dal centro, per ristabilire il benessere, per ricominciare con il passo giusto, per seminare quella salute che ci servirà per affrontare con tutta l'energia necessaria l'anno che ci aspetta. Ci aiuta oggi il professor Antonio Gasbarrini, ordinario di gastroenterologia all'Università Cattolica di Roma. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Oggi ricominciamo con lei e io ho detto ricominciamo dal centro. Perché io vorrei parlare con lei di quello che ormai è definito un po' il regista della nostra salute fisica e psichica, il microbiota. Forse in vacanza l'abbiamo strapazzato un po', adesso torna alla quotidianità, noi dobbiamo aiutarlo. Se noi gli diamo una mano, lui saprà ricompensarci. Professore, siamo nelle sue mani nel frattempo. Sì, diciamo siamo nel suo intestino, perché nella realtà dei fatti questo regista, come ha molto ben detto, che cos'è? È una comunità di microbi, in particolare di batteri, miceti e virus, che colonizza il bambino alla nascita e poi ci portiamo dietro tutta la vita. Ha un ruolo importantissimo nel determinare la salute e purtroppo anche le malattie delle persone. E è composto da batteri, miceti e virus. E colonizza però non solo l'intestino, perché è anche presente nell'apparato genitourinario, all'interno dei polmoni, sulla pelle e anche a livello della mucosa orale, quindi in qualche modo tutte le superfici di contatto con l'esterno. Ha un ruolo molto importante sia perché tiene sveglia e attiva l'immunità, sia perché combatte i patogeni, sia perché controlla il metabolismo. Noi purtroppo ogni tanto però lo andiamo ad alterare e in vacanza diciamo che questo rischio c'è, quindi in qualche modo dobbiamo sentire il nostro corpo, vedere se abbiamo dei disturbi che possono essere anche piccoli, pensiamo a un po' di bruciore di stomaco, pensiamo a meteorismo, gonfiore, a problemi nell'andare di corpo, a volte anche malessere, perché il microbiota controlla anche in qualche modo i sentimenti di una persona, il microbiota è stato collegato anche all'ansia o alla depressione, per cui vedete cose apparentemente strane. Quello che bisogna fare è sentire il nostro corpo, abbandonare gli alcolici, ritornare all'alimentazione sana, ricominciare a mangiare molte fibre vegetali, soprattutto frutta e verdura, evitare pasti troppo abbondanti e spezzare l'alimentazione nella giornata. Calcolate che il modello ottimale di alimentazione prevede 3, 4, 5 pasti al giorno e non un unico pasto troppo abbondante come purtroppo spesso facciamo non avendo tempo. Il microbiota ha un ruolo importante, professor Gasbarrini, non solo per il nostro benessere fisico, ma anche per quello psichico. Ci sarà magari un domani la possibilità di prendere probiotici o fermenti che proprio riescono a spegnere o risolvere questo problema? Diciamo di sì, chiaramente stiamo toccando delle aree ancora in corso di studio, però calcolate che quello che si è visto è che se uno trapianta il microbiota di una persona estremamente depressa in un modello animale, quel modello animale può sviluppare quel tratto di comportamento, quindi il microbiota sicuramente attraverso questa comunicazione continua che c'è tra i due cervelli della persona, che sono il cervello alto e il cervello intestinale, questa brain gut communication, in qualche modo c'è un legame molto forte, quindi si può pensare che questo si possa fare. Quello che è certo però è che ad oggi possiamo fare l'unica cosa che ad oggi si può fare, cioè nutrirlo bene. Sui probiotici probiotici è interessante. Ad oggi si parla addirittura di alcune classi di probiotici che possono modulare il tono dell'umore, che si chiamano psicobiotici, però diciamo che siamo proprio all'inizio. Io sono certo in ogni caso che nel futuro, modulando il microbiota, potremo anche modulare i tratti di personalità di una persona e in qualche modo influenzare il suo umore e quindi migliorare quelle sintomatologie di ansia e a volte di depressione che una persona ha quando rientra da un bel periodo di vacanza. Professore, noi parliamo di microbiota, abbiamo capito che è unico e diverso da individuo a individuo, è un po' come le impronte digitali, sembrano all'apparenza uguali ma sono tutte diverse, specifiche e con delle caratteristiche particolari. Allora, come si può fare tesoro di queste conoscenze per mantenere in buona salute il proprio unico straordinario microbiota? Chi può aiutarci? Allora, come ha detto lei molto giustamente, la medicina sta totalmente cambiando con le scoperte sul microbiota, perché ognuno di noi in qualche modo viene colonizzato da un microbiota diverso, perché è il microbiota che ci viene a colonizzare nei primi 5, 7, 10 anni di vita. E come cambia? Cambia proprio in base alle influenze che ognuno di noi ha. Ognuno di noi ha avuto dei genitori con un carattere diverso, è cresciuto in un contesto familiare diverso, in città diverse, con un'alimentazione diversa, ha avuto meno animali nel proprio nucleo familiare. Purtroppo alcune persone hanno subito violenza quando erano piccoli, violenza anche psicologica, non solo fisica. Questo microbiota sente tutto quello che ci succede e questo core microbiota che funzione ha? Ha la funzione di farci superare al meglio la vita di quando saremo adulti. Quindi è chiaro che ognuno di noi ha una vera e propria impronta microbiologica nell'apparato digerente che ha un'unica funzione, farci sopravvivere meglio e di più. Quindi è chiaro che è impensabile pensare che la stessa dieta sia valida per tutte le persone. Quindi in qualche modo dobbiamo conoscere noi stessi, sapere quali sono gli alimenti che ci aiutano a stare meglio e modularli, ricordandoci però che c'è un alimento cardine per il microbiota che sono le fibre vegetali, perché il microbiota è stato proprio strutturato su quello che era il cibo cardine dell'alimentazione dell'Homo sapiens fin dai primi momenti della sua vita, e cioè una dieta molto molto ricca in verdure e poi in frutta, meno in proteine animali, meno in proteine derivate del latte, perché qualche cosa che nel passato si utilizzava meno solo nei primi anni di vita, però sicuramente una dieta molto molto ricca di verdura con un'ottima idratazione. Professor Gasbarrini, però sappiamo che ci sono delle persone che aggiungendo fibra alla loro dieta pagano come conseguenza dolori addominali, gonfiore, meteorismo. Questo dipende probabilmente dal fatto che, ancora una volta, il microbiota è diverso da persona a persona, ma per alcuni di noi diventa un po' complicato aggiungere la fibra. Sbagliamo il modo di assumerla? Allora, è qualcosa di molto più complesso, mettiamola così. Purtroppo molti di noi non hanno avuto una vita perfetta nel passato, o alcuni hanno delle modifiche anatomiche. Pensiamo a una cosa molto molto comune, la presenza di diverticoli nel colon. Sì. È chiaro che nei diverticoli il microbiota sovraccresce e quindi sovraccrescendo, quando pigliamo troppe fibre abbiamo meteorismo, abbiamo gonfiore. Ma quindi il problema non è il microbiota, è che c'è una modifica anatomica. Quindi la prima cosa è conoscere il proprio corpo, essere certi che non sia una malattia particolare. E un'altra cosa molto banale, proprio perché molto comune: sapete qual è la classe di farmaci più utilizzata nel nostro paese? Sono gli inibitori di pompa protonica, o gli antiacidi o gli antisecretori. È chiaro che se noi blocchiamo l'acidità gastrica, i batteri dal colon sovraccrescono nell'intestino tenue, e quindi se poi mangeremo fibra avremo meteorismo, ma è ovvio, abbiamo alterato l'anatomia perfetta che è nel corpo umano. Quindi in qualche modo non dobbiamo neanche poi meravigliarci se abbiamo gonfiore o meteorismo. Quindi conoscere il proprio corpo, analizzare col proprio medico se c'è qualcosa che dobbiamo cambiare, ma assolutamente evitare l'errore incredibile che fanno le persone che tolgono completamente le fibre vegetali della dieta, il cardine dell'alimentazione dell'Homo sapiens. Quali sono gli altri errori, professor Gasbarrini, che compiamo magari senza rendercene conto o magari sulle basi di indicazioni che non hanno alcun fondamento scientifico ma che sono dettate generalmente da delle mode? La prima di queste mode è mangiare un unico alimento. Ci sono delle persone che, in maniera a me inspiegabile, utilizzano delle diete molto molto molto strette, fatte di pochissimi alimenti. È un errore sostanziale, perché dato che il microbiota in qualche modo cresce sulla base di quello che noi prendiamo, più è varia la nostra alimentazione, soprattutto più sono varie le fibre che una persona prende e più crescono batteri diversi. Il cardine, per avere la capacità in qualche modo di rispondere a momenti diversi della vita, è avere molti batteri, molto eterogenei, tanti classi di microbi e batteri buoni, non solo pochi. Quindi evitare un pasto molto molto ristretto fatto sempre dalle stesse cose. E poi idratarsi molto. L'acqua è estremamente importante. Gli alcolici devono essere evitati nelle persone malate, nelle persone che stanno male. Possono essere presi in piccola quantità, ma ricordiamoci che l'alcol in qualche modo può essere tossico, soprattutto se preso in alte condizioni nella persona, perché altera questo equilibrio. Evitare i farmaci se non sono strettamente necessari, ed evitare soprattutto quei farmaci che possono alterare l'equilibrio complessissimo dell'apparato digerente. Noi siamo una macchina veramente perfetta, ma dobbiamo essere in grado di mantenerla perfetta ed evitare delle mode a volte che possono alterarla. Pensare in qualche modo che un equilibrio perfetto non va alterato seguendo solamente delle mode. Parlarne col proprio medico, col proprio nutrizionista, e vedrete che la maggioranza delle patologie possono essere anche prevenute, non solo affrontate una volta che si realizzano. Lei ha detto che il microbiota viene in qualche modo, si forma nei primi anni di vita, quindi consigli per i genitori all'ascolto: coltiviamo, anzi direi seminiamo la salute, e quindi quali sono le attenzioni che bisogna avere nell'alimentazione dei bambini per poter garantire una popolazione multietnica di batteri, virus, miceti che preservi la loro salute? No, questo è veramente una cosa fondamentale. Questo core microbiota, microbiota centrale, è quello che si sviluppa nel bambino nei primi 2, 3, 4, 5 anni di vita. È il momento cruciale dello sviluppo proprio di tutte quelle caratteristiche che si chiamano epigenetiche, cioè quell'insieme di fattori che poi insegneranno al bambino come sopravvivere in un mondo a volte ostile. In qualche modo è come se il bambino si stesse formando sulla base di quello che sente in quei primi anni. Quindi innanzitutto, se possibile, chiaramente se non ci sono complicanze, privilegiare il parto naturale per via vaginale, quindi il cesareo solamente se necessario, privilegiare un allattamento al seno, proprio perché il latte materno dà al microbiota anche tutti quei prebiotici, quelle sostanze fondamentali per sviluppare un corretto core microbiota, microbiota centrale. Fare lo svezzamento al momento giusto, non anticiparlo ma neanche ritardarlo troppo, perché se lo ritardiamo troppo in qualche modo vi sono troppi pochi batteri, sono i pochi dati dal latte materno, quindi svezzarsi nel momento giusto parlando col proprio pediatra. E poi qualche cosa che vale anche per i genitori: il microbiota in qualche modo sente quello che succede all'esterno, quindi i genitori devono essere in qualche modo, devono stare molto attenti, perché il bambino in una culla non è che non sente quello che gli sta succedendo attorno, il bambino sente tutto, sente delle urla dei genitori, sente un ambiente ostile, sente delle problematiche, sente un padre e una madre che discutono, certo, in continuazione. Professor Gasbarrini, grazie. Allora possiamo chiudere questa nostra puntata con silenzio. Il microbiota ci ascolta. Assolutamente sì, ascoltavo tutta questa telefonata. Grazie, buona giornata professor Gasbarrini. Arrivederla Nicoletta, arrivederci a tutti. Per oggi è tutto, allora io come sempre vi aspetto, non mancate, seguitemi. Buona giornata da Nicoletta. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.